Il consueto appuntamento dunque del lunedì sera, da adesso sino alle 23 circa. Sarà l'ultima trasmissione di anche di per questo lunedì. Diamo il telefono, che è naturalmente sempre lo stesso, lo 0649 1750, sito internet anche per connettersi via streaming, che è www.ondarussa.info. Per le comunicazioni mediante posta elettronica, ondarossa@ondarossa.info. Per quanto riguarda la possibilità di sentirsi in maniera postuma questo programma, domani sul sito della radio e sulla pagina Facebook Prove Tecniche di Trasmissione /Disorder ci sarà la playlist e appunto la registrazione conseguente di questa puntata. Rapidi saluti verso un pezzo della Sardegna rappresentata da Damaia e Massimo Olla, valente musicista spesso in combutta con Gianluca Becuzzi, quantomeno ultimamente. Ricordiamo il loro album The End, che ascolteremo mercoledì prossimo. Un saluto a Anna e a Tania qui a Roma. Francesco Creto dalle Marche. Bene, cominciamo questo programma con una novità che abbiamo già apprezzato mercoledì scorso, appunto durante prove tecniche di trasmissione. Sto parlando dell'ultimo lavoro dei Deccan Dance. L'album che si chiama Dynasys, un chiaro omaggio quantomeno all'origine greca del dio Dioniso, il dio della fertilità, dio della natura. E infatti questo album è un vero e proprio omaggio alla forza e alla purezza della natura, un album che quindi privilegia il lato più etnico rispetto a quello più oscuro e gotico di molti dei precedenti, no, circa 10 lavori per questa band australiana. Infatti un album che riprende lo spirito del vecchio Spirit Chaser, un album che al pari di questo ha suscitato magari qualche dubbio verso chi privilegiava l'aspetto più goth. Mi limito a dire che indubbiamente è un album, un buon album, una sorta di evoluta world music, se vogliamo. Un album che si divide in due atti lunghi, divisi a loro volta nel primo atto 3 brani e nel secondo 4 brani. E quindi ci ascoltiamo Seaborn e Liberator Our Minds, mentre salutiamo anche Antonio da Firenze. Questi 2 brani appartengono all'Act Number 1. Dunque, ultimo lavoro per i Deck and Dance di Brendan Perry e Lisa Gerrard, si chiama Dionysus, un omaggio al dio Dioniso. Ma la Grecia è anche uno spunto per andare poi, per peregrinare per altri mondi e per altre culture, soprattutto quella araba. Ma nel disco si possono trovare anche strumenti etnici molto particolari, per esempio uno strumento bulgaro. Ma già dalla copertina un cappuccio coloratissimo appartenente a una tribù della Sierra Madre messicana, i Huichol, una tribù famosa per le loro celebrazioni estatiche a base anche di peyote. E via di questo passo, quindi tamburi ancestrali, cornamuse e appunto la gadul, che è strumento bulgaro. Le voci sono un po' sullo sfondo e soprattutto compaiono nel secondo atto, fondamentalmente un'opera di Brendan Perry alla quale poi Lisa Gerrard presta la sua voce meravigliosa, anche se meno rispetto agli album precedenti. E forse questa è una, secondo me, anche una pecca di questo lavoro: sacrificare troppo le voci. Antonio mi dice di calmarmi, credo ce l'abbia con me, ma non lo dico senza nervosismo, è che i Deck and Dance fanno parte anche del mio DNA e quindi uno pretenderebbe sempre il meglio. Capolavori ne hanno fatti, questo diciamo secondo me non lo è, però un buon lavoro da apprezzare, soprattutto in tema di world music. Comunque non ero io il soggetto della reprimenda, ma buon Luciano FM, musicista qui di Roma, che ci sta ascoltando anche lui. Allora, dai Deck and Dance ci spostiamo in Slovenia, è un altro caposaldo, un'altra icona della scena, diciamo, industrial. Trattasi naturalmente dei Laibach, un aspetto più noto della Slovenia stessa, insieme ai Borghesia. Anche dei Borghesia ci sarà uscito un ultimo lavoro che ascolteremo nelle prossime settimane. Ma tornando a questi Laibach, anche loro perpetrano una operazione musicale e culturale molto molto particolare. L'album si chiama The Sound of Music. Ed un album che si collega alla tournée che fecero i Laibach 3 anni fa in Corea del Nord, primo gruppo, diciamo, ad entrare ufficialmente in quella nazione. L'album è una sorta di coverizzazione della colonna sonora di un film degli anni 60, appunto The Sound of Music, che in Italia prese il nome di Tutti insieme appassionatamente. Una storia sentimentale, ma che ha sullo sfondo l'ascesa del nazismo al potere. E quindi l'operazione paradossale e provocatoria, diciamo, dei Lab è appunto quella di, ovviamente, mettere e sottolineare l'arte del consenso creato in determinate società anche autoritarie. E quindi l'accostamento alla Corea del Nord è un gioco forza. Nel gusto del paradosso ci sfornano dunque questo album, che è un po' metà tra canzoni new wave romantic degli anni 80 e vera e propria new wave, abbandonando abbastanza gli scenari industrial. Cominciamo con conoscerlo, con la title track, questo The Sound of Music, e poi Climb Every Mountain. Thank you.

Ultima operazione perpetrata dunque da Laibach, questo Sound of the Music. Anche questa è una coverizzazione della colonna sonora dell'omonimo film degli anni 60. Quest'album che va a collegarsi, come ho già detto, alla loro tournée passata in Corea del Nord. Una stessa tournée che si va a collegare alla loro perenne provocazione verso i sistemi di comunicazione e soprattutto delle società autoritarie. Un album che è arricchito anche nella parte finale di un diciamo inno non ufficiale delle due Coree teoricamente riunite. Arirang si chiama. Poi ce n'è un brano suonato dagli studenti di Phnom Penh e poi addirittura il discorso del ministro della cultura mentre li va ad accogliere. Ed è bella questa operazione che fa anche capire che, per esempio, le teorie della comunicazione e le varie forme di autoritarismo possono collegare delle nazioni apparentemente lontane, per esempio Stati Uniti e Corea. Dunque Laibach, The Sound of Music, con il vocione di Milon Frass, ma con ospiti anche le voci e tanti tanti strumentisti. E questo album, al pari dei Deccan Dance, lo ascolteremo anche la prossima settimana. Si va oltre e anche per questa sera andiamo ad omaggiare Valerio Zecchini e i suoi Post Contemporary Corporation. Abbiamo saccheggiato Manzoni Mantra e finiamo con il saccheggio questa sera attraverso due remix sempre di Manzoni Mantra, rispettivamente ad opera di Malato, progetto qui romano, al pari di Spiritual Front, altra grossa realtà tra neofolk, dark wave, un vero e proprio crooner che risponde al nome di Simone Salvatore, che però qui si diletta anche lui con l'elettronica nel remixare la settima traccia di Manzoni Mantra.